gentlemen, may I have your attention, please? Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah. I love Italy. Mangiarotti su Radio Miami. I love Italy. I Love Italy su Radio Miami International, WRMI, Double RMI. Benvenuti a tutti, bentrovati da Andy Mangiarotti. Questi sono i miei 15 minuti in lingua italiana. In questa trasmissione stiamo insieme 15 minuti su Radio Miami per raccontarvi qualcosa di Italia, che può essere qualcosa del passato ma anche notizie di oggi. Parliamo un po' di tutto, è un rotocalco settimanale di costume, società e così via. Se volete interagire con Andrea lo potete fare in diversi modi. Abbiamo la nostra mail, se volete segnalarci rapporti di ricezione, che è la seguente: andrea@mangiarotti.org, oppure abbiamo sempre il nostro sito pronto e disponibile, voiceofitaly.it oppure andreamangiarotti.com. Questi sono i contatti, i riferimenti per interagire appunto con I Love Italy, la trasmissione che state sentendo sulle onde corte grazie a Radio Miami International. Se invece volete scrivere alla trasmissione in formato cartaceo lo potete fare, potete inviare la vostra corrispondenza a Double RMI, Radio Miami International, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Quindi se volete interagire con Andrea, questi sono i contatti sia miei ma anche di Radio Miami, appunto l'emittente che ci ospita. Che cosa parliamo in questa trasmissione, in specifico in questo episodio? E parliamo ovviamente di un tema che sta tenendo banco un po' in tutte le TV del mondo, cioè la guerra in Ucraina e le varie guerre che sono sparse in giro per il mondo. Facciamo un tuffo indietro nel tempo e vediamo velocemente che cosa è stata la guerra in Italia, nella nostra nazione, in Italia, appunto, fino all'aprile del 1945. Tutto iniziò nel 1939. Inizialmente l'Italia era neutrale, non voleva partecipare alla guerra, appunto, che Hitler aveva scatenato in Europa. Non voleva partecipare perché non eravamo idonei, praticamente eravamo una nazione molto povera, non avevamo un esercito fornito di soldati, di armi adeguati. Però poi con gli anni, in specifico con il 1940, sembrava che Hitler stesse conquistando territori un po' in Europa. Allora Mussolini ha avuto quest'idea di allearsi per l'appunto con il cosiddetto Baffetto. Nel 1940 entra ufficialmente l'Italia in guerra a fianco della Germania. C'è da dire che moltissimi gerarchi del periodo, tra cui anche Galeazzo Ciano, avevano sconsigliato più volte a Mussolini di prendere parte a quella guerra e soprattutto di diffidare di Hitler. Però lui, come era, come è sempre stato anche nel periodo quando era socialista, perché molti non lo sanno, ma Mussolini ha avuto anche un ventennio di passato socialista, il padre era anche sì un anarchico comunista. In quei vent'anni nel Partito Socialista praticamente lui faceva quello che voleva, non ascoltava nessuno anche in quel periodo, era addirittura pacifista, pensate voi. Va bene, siamo nel 40, l'Italia entra ufficialmente in guerra a fianco della Germania. E che cosa capita? Ne capitano di tutti i colori, perché Mussolini decanta le glorie e, diciamo così, i successi oltralpe della Germania, e quindi anche se l'esercito italiano non era in grado di sostenere una guerra, lui pensava che alleato con Hitler, questo personaggio, poteva anche lui magari conquistare delle fette di territorio. Già avevamo avuto delle esperienze in Africa, insomma, non bellissime, anzi tutt'altro, però lui decide appunto di allearsi con il regime fascista. E che cosa fa all'entrata in guerra dell'Italia? Ovviamente, essendo alleato con i tedeschi, con Hitler, deve anche lui in Italia istituire le cosiddette leggi razziali, che alcuni, quasi tutti, le hanno definite veramente un'oscenità, proprio un obbrobio. Però lui le introduce, perché essendo alleato con il Baffetto, con Hitler, li deve portare anche in Italia. Ovviamente, oltre alle leggi razziali, ci sono anche numerosi campi di internamento per gli ebrei, non campi di internamento, di lavori forzati. Alcuni dicono che queste leggi in Italia non siano mai state appieno applicate, altri invece sì, però è un dato di fatto che negli anni 40-42, se in Italia eri un ebreo, venivi assolutamente deportato in Germania. Con questa situazione, potete immaginare, con la guerra, con i soldati che poi addirittura vengono mandati in Russia a proprio morire, perché non avevano neanche l'abbigliamento per l'inverno, lui pensava di, con Hitler, di andare a conquistare la Russia inviando milioni di italiani, che poi sono praticamente morti tutti, perché le truppe non erano in grado, ovviamente, oltre che a combattere in pieno campo, ma non erano in grado anche di sopportare il freddo della Russia, e venivano mandati con abiti estivi. Siamo nel 1943. Che cosa capita nel 43? Che ovviamente in Italia nasce il malcontento, vuoi perché la situazione si fa sempre più drammatica. Ricordo che mia mamma mi diceva appunto che venivano date le fedi al duce, vedevano forgiate per fare armi e così via, per venderle, per poi acquistare armi e così via. Siamo nel luglio del 20, del, siamo il 25 luglio del 1943. L'Italia firma l'armistizio appunto dell'8 settembre. L'impresa bellica italiana era conclusa, ma la guerra e le stragi no, continuavano, perché di fatto si crearono due tipi di Italie. Una dell'Italia che praticamente è il nord Italia, con appunto capitale Milano, la Repubblica di Salò che tutti voi conoscete, e l'altra invece un'Italia libera, liberata anche e soprattutto grazie all'esercito americano, che liberarono il centro sud dell'Italia. Il nord, Mussolini venne preso, più volte lui aveva dichiarato che voleva andarsene in pensione, forse se l'avesse fatto era meglio, però fu preso dai tedeschi e messo a capo di questa Repubblica Fantoccio del nord, la Repubblica di Sarò, dove praticamente comandavano le truppe naziste. E quindi ci fu per l'Italia una vera e propria guerra civile, perché abbiamo la formazione di combattenti partigiani che vedevano alleati di questi partigiani, non solo magari socialisti, comunisti, ma anche democristiani, repubblicani, liberali, che si battevano per l'appunto per la libertà della nostra nazione, per la libertà d'Italia. Quindi abbiamo parlato dell'armistizio, vi facciamo sentire questo contributo appunto del maresciallo Badoglio. Audizioni radiofoniche Edgar. Proclama del capo del governo. Parla sua eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Così l'armistizio firmato dal maresciallo Badoglio, siamo nel 43, ora però torniamo al 25 aprile del 1945, quando l'Italia è completamente liberata, tra virgolette, perché continuano a combattere ancora delle minoranze di fascisti, tra cui anche lo stesso Mussolini che scapperà, cercava di scappare in Germania, ma poi venne preso appunto al nord, a Dongo, e sapete tutti la fine che ha fatto. Una piccola testimonianza di mia madre per chi pensa che la guerra si debba fare. Mio zio, 15 anni, esce di casa con una sciarpa granata, ma non aveva nulla a che fare né con i partigiani né con la politica, né niente, era un semplice ragazzo. Tempo 5 minuti, viene subito preso e messo al muro dall'esercito nazista e fascista, pronto per essere fucilato. Grazie al cielo passa di lì un gerarca fascista che conosceva un po' tutti gli abitanti, insomma, di questo paesino, e subito lo salvò. Questo per dirvi che cos'è la guerra, quante persone innocenti hanno perso la guerra in quella guerra e in quest'altra che ora vede protagonista appunto l'esercito dell'Ucraina e l'esercito russo. Quindi quest'oggi a I Love Italy vi abbiamo raccontato la guerra che la nostra nazione partecipò in prima persona, quello che è stato la perdita di tante persone, di tante vite appunto spezzate. E poi, permettetemelo, 25 aprile trovo una cosa non corretta, che quando ci sono le sfilate non si possa permettere anche all'esercito americano che ci ha liberato. L'esercito americano in Italia è sempre stato corretto, ci ha liberato e non ha mai ucciso fascisti, tutt'altro. Quindi mio pensiero per il prossimo 25 aprile si possa vedere anche la bandiera americana insieme alle altre bandiere, quella italiana e così via. È un pensiero che è giusto ricordarlo, perché molti non lo ricordano, ma l'Italia è stata liberata soprattutto dagli americani. E quando arrivavano gli americani, come diceva mia mamma, regalavano le cicche, le caramelle ai bambini, le sigarette agli adulti, dei soldi appunto agli adulti e alle donne, perché ricordiamocelo che l'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale era veramente distrutta, completamente distrutta. Va bene ragazzi, grazie a Jeff White, siamo tornati indietro nel tempo, a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente sempre qua su Double RMI. Buona giornata, buona serata, secondo di quando ci ascoltate, da Andrea o da Andy Mangiarotti. Rimanete su Radio Miami perché i programmi continuano. Ciao!